314. Polpette. Non crediate che io abbia la pretensione di insegnarvi a far le polpette. Questo è un piatto che tutti lo sanno fare, cominciando dal ciuco, il quale fu forse il primo a darne il modello al genere umano. Intendo soltanto dirvi come esse si preparino da qualcuno con carne lessa avanzata. Se poi le voleste fare più semplici o di carne cruda, non è necessario tanto condimento. Tritate il lesso con la lunetta e tritate a parte una fetta di prosciutto grasso e magro per unirla al medesimo. Condite con parmigiano, sale, pepe, odore di spezie, uva passolina, pinoli, alcune cucchiaiate di pappa, fatta con una midolla di pane cotta nel brodo, nel latte, legando il composto con un uovo 2 a seconda della quantità. Formate tante pallottole del volume di un uovo, schiacciatele ai poli come il globo terrestre, panatele e friggetele nell'olio o nel lardo, poi con un soffrittino d'aglio e prezzemolo e l'unto rimasto nella padella, passatele in una teglia, ornandole con una salsa d'uova e agro di limone. Se non tollerate i soffritti, mettetele nella teglia con un pezzetto di burro, ma vi avverto che i soffritti, quando siano ben fatti, non sono nocivi, anzi, eccitano lo stomaco a digerir meglio. Mi rammento che una volta fui a pranzo con alcune signore in una trattoria di Grido, la quale pretendeva di cucinare alla francese, troppo alla francese, ove ci fu dato un piatto di animelle coi piselli, tanto quelle che questi erano freschi e di primissima qualità, ma essendo stati tirati a cottura nell'umido del solo burro senza soffritto, o almeno un buon sugo e senza aromi di sorta, nel mangiare quella pietanza che poteva riuscire un eccellente manicaretto, si sentiva che lo stomaco non l'abbracciava e a tutti riuscì pesante nella digestione.